avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. So già, e lo dico in premessa, che sarò aspramente criticato per questa trasmissione, ma sono più che mai convinto che occorra farla per ristabilire un principio di giustizia. In nome della giustizia, in realtà, qualunque azzardo è lecito e permesso. Da qualche giorno esiste una campagna discriminatoria nei confronti di una parte ben precisa della nostra popolazione. La scaturigine di questa campagna non mi interessa, perlomeno nell'argomento di questa trasmissione, però citerò soltanto che riguardo nell'ultima fase al cosiddetto caso Tarantini, ma ancor prima in tutta una serie di vicende legate alla politica e gli aspetti più carnali e pecorecci di alcuni importantissimi uomini politici, è emerso un dato abbastanza costante che discrimina fortemente le donne pugliesi. Sembra quasi che da qualche mese siano tutti concordi nell'affibbiare alla femmina pugliese una sorta di primato nella facilità a concedersi e a stabilire un rapporto di intimidazione soprattutto con persone legate al potere. Ora credo che questo sia soltanto una fatale e tragica casualità, che le signore della Bari Bene che sarebbero andate a fare la fila nei luoghi del potere più eccelsi per ottenere favori in cambio di piaceri, ancora è vicenda tutta da provare. Che alcune signorine dalla precipua facoltà di donare se stesse in maniera fantasiosa siano appartenute in percentuale elevata alla Puglia è senz'altro vero, ma questo non permette di dare un primato a questa regione, non è giusto. Ci sono altre regioni che magari hanno maggior diritto di avere questo tipo di palma, e quindi questa mattina vorremmo ristabilire un principio di giustizia. Quale regione d'Italia produce, secondo voi, donne maggiormente inclini alla generosa intimidazione? Questa è la domanda. Domanda secca, precisa. Portate acqua al vostro mulino, portate orgoglio alla vostra cittadinanza, alla vostra regione, soprattutto voi donne, e non vi fate passare avanti in maniera ingiusta dalle donne pugliesi, che non è detto che siano loro necessariamente quelle più generosamente inclini all'intimidazione. Questo naturalmente non vuole essere un discorso limitato alla classificazione dei talenti femminili, gli uomini hanno gran parte in questa vicenda, perché laddove le donne hanno una facilità, una generosità, un temperamento, un'esuberanza, un desiderio gioioso di conoscere, di farsi conoscere, probabilmente esistono degli uomini con particolari defaillance. Mi diceva un'amica mia di una regione che non cito, anzi di una città che non cito, dice: no, sai, siamo così allegre, così fantasiose, così desiderose di conoscere persone e così di manica larga, diciamolo, perché da noi gli uomini bevono sempre, bevono, bevono, bevono, a 20 anni già sono belli che fradici, e che ci fai con degli uomini ubriachi? Sembra dei bambinoni da portare all'asilo. È chiaro, noi dobbiamo guardarci attorno. 800240024, la domanda mi sembra espressa nei termini più chiari possibili. Ti do tempo fino a domani pomeriggio, poi tutta la città saprà tutto. E Carla verrà a sapere che ti sei precipitato a scoparmi, che la odi, che la consideri fredda, odiosa. E tu non vuoi tutto questo, vero? Signora, c'è uno alla porta. Dice che devi firmare. Firmare per cosa? Per dare una pelliccia. Scusa un momento, prego. Esco un attimo. Mi aspetti qui? Veramente, io pensavo di tornare a casa. Allora ci vediamo domani, d'accordo? Vabbè. Arrivederci, Rosaria. Ciao, signora. Ahimè, purtroppo la pellicola cinematografica che dovrebbe confermare il triste pregiudizio e in realtà la palma, secondo me immeritata alle donne pugliesi, di maggiore carnalità, è interpretata dal film stracitatissimo in tutte le i commenti alle intercettazioni telefoniche, agli interrogatori preventivi, via dicendo, La Riffa, interpretato da Monica Bellucci, che secondo me ha torto impersonifica la donna pugliese, essendo umbra di radice, quindi abbastanza mediana come capacità di elargire intimidazioni. Io che sono umbro conosco la donna umbra. La donna umbra sta a metà, è la donna che sta nel mezzo. Poi fraternane, perugine, esistono radicali e terrificanti classificazioni fatte negli ambiti delle aule universitarie, quindi le ricordo bene. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Secondo te la Bellucci non merita in questo caso di rappresentare coloro che dovrebbero avere, secondo la vulgata giornalistica, la palma dell'intima d'azione. Però parliamo della Riffa, film tanto citato, che dovrebbe rappresentare un esempio di callida e furba carnalità usata a danno di uomini stupidi, allocchi, come sempre accade in realtà in tutte queste circostanze. Il film è del 91 di Francesco Laudadio e racconta una Bari appunto molto poco connotata in realtà. Tu sei pugliese, quindi conosci il terreno. È una città che conosco, in realtà è abbastanza gelida e astratta, appunto con questa umbra, tra l'altro che era Bellucci, bellissima, che è questa oggettità, la divinità bizantina, e attraverso questo film in cui rimane vedova di quest'uomo che la lascia indebitata, quindi la lascia in pasto ai suoi amici che per aiutare la vedova in realtà le offrono solo sesso, denaro in cambio di sesso, e quindi si trova ad attraversare questa borghesia sordida che ha demetaforizzato l'orgia del potere negli ultimi tempi. Il film non è un grandissimo film, non affonda, proprio perché la Bellucci non ha un'evoluzione reale, non ha reazioni, rimane perfettamente statuaria, catatonica, attraverso catatonica il film, che insomma, ha dei momenti quasi da... Infatti mi scrive un ascoltatore a proposito di quello che stai dicendo te, su Facebook, dice: lo spunto di riflessione, la regione dove le donne sarebbero più incline è quella dove c'è maggior consumo di Botox. Secondo lui l'equazione è questa: producono più consumano più Botox, quindi sono più inclini. Non trovo che sia giusta questo tipo di equazione. Ma guarda, più che altro tornando al contesto barese, come ha scritto un ottimo scrittore barese di recente, Nicola Lagioia, parlando della società barese, la borghesia barese non ama molto ammantarsi di prerogative culturali, ha sempre avuto un'inclinazione molto feroce, legata appunto agli status symbol, al denaro. Il film è del 91, guarda caso l'anno in cui per autocombustione sparisce il Petruzzelli, che era appunto gestito attraverso un connubio delicato fra la buona borghesia e la malavita, quindi c'è sorta una sorta di... Quindi si aprono i teatrini domestici, chiuso il teatro comunale di Bari. Si aprono appunto le alcove domestiche, la teatralità estrema del privato. Ecco. 800 24 00 24, aiutateci a capire e comprendere. Mi rendo conto che è difficile fare una disanima precisa e sincera sulle caratteristiche regionali, locali della propria zona, però ci piacerebbe capire perché le baresi in questo momento hanno questa sorta di primato, perché nella memoria cinematografica che percorreremo questa mattina assieme a Giuseppe Sanzonna esistono altre regioni che hanno in realtà la palma, il primato del desiderio, il primato della lussura, il primato del proclamare la femmina al centro di un'attenzione che va oltre la semplice consumazione, quasi un'idolatria della femminilità. Il Grand Hotel. Io chiamo il Grand Hotel la vecchia signora. Ogni anno vengo qui per succere il miele dell'amore. Do tenerezza e desidero tenerezza. Sono l'unico del borgo a frequentare il Grand Hotel. Ah, dicono ci sia stata la gradisca. Anzi, fu in seguito a quella per me improbabile avventura che venne chiamata appunto gradisca. Il suo vero nome è Ninone. Beh, dicono che 3 anni fa, una sera d'inverno... No, la fatta una bella figura, ma raccomando. Oh, il principe è bellissimo, sai. E Sottovetti rimane contento. Diglielo dei lavori sul lungomare. Lui con una parola mette a posto tutto, sai. Si è educato, parla italiano. È un principe, sai, mica un patacca qualunque. Poi è una ecco, grande occasione. Molti mi stanno scrivendo, naturalmente, contrapponendo alla new entry che... la donna pugliese, la donna dell'Emilia Romagna, poi dipende dal punto di vista, comunque la donna emiliana e romagnola, la donna che per eccellenza ha sempre rappresentato questa sorta di primato. Lo stesso Catullo parlava di Ruffa che lo succhiava, Ruffo, la bolognese, lo diceva Catullo, quindi già era, diciamo, una prerogativa che affondava le radici nel pensiero classico. Poi a Marcord di Fellini ha stampato nell'immaginario mondiale la gradisca, ovvero la donna che è diventata un congiuntivo esortativo, ovvero l'incandescenza dell'immaginario giovanile di tutto un paese, di tutta una Rimini che vede in questa meravigliosa signora, che poi si concederà al principe, appunto avrà una sorta di momento culmine della propria d'azione. Quindi, e questo rappresentava appunto il crocevia dell'immaginario dei ragazzini durante il periodo fascista, del giovane. Ecco, hai detto una cosa giusta, Giuseppe. Quello mi piacerebbe di capire questa mattina, perché vedo una sorta di pudibonda latitanza di fronte ai telefoni, è tutto quello che noi stiamo dicendo. Stiamo scherzando, giochiamo a fare gli antropologi, perché vogliamo tenere alto il livello di questa trasmissione, sennò diventerebbe chiaramente una scurrile elencazione di luoghi comuni. Sono tutte allucinazioni prettamente maschili, sono gli uomini a dire: ah, le venete, ah, le bolognesi, ah, non mi parlare delle marchigiane, ah, le siciliane, Dio mio. Sono tutte allucinazioni maschili. Mi piacerebbe capire, però, dal punto di vista delle donne, queste fame, che comunque ogni fama affonda le radici in un principio di realtà, su quale realtà si fondano? Su una realtà di isolamento, su una realtà di fantasia, su una realtà magari, non so, di usi alimentari? Perché magari mangiano salamella e affettato, e quindi questo rende il sangue più caloroso, o perché magari gli uomini sono stati per lunghi periodi in fasi di immigrazione, quindi le donne sono state sole, quindi hanno allucinato dei fantasmi amorosi che in realtà avevano difficoltà a realizzare. Ecco Nicola, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Io me la stavo menando il camper l'aia in attesa che qualcuno telefonasse, finalmente ha chiamato Nicola. Quindi pugliese. Barese Doc. Lei cosa ne dice? È giusto? Io trovo che non sia giusto che proprio le donne pugliesi abbiano questo primato. Ce ne sono tante altre. Poi vediamo se lei mi aiuta a capire cosa ci sia dietro questa nomea. Ma io individuo il problema diversamente, perché avendo avuto la fortuna di viaggiare tanto in tutta Italia, non solo in Italia, per lavoro, una caratteristica che io individuerei nelle donne pugliesi, secondo me, rovescia un attimo il gioco. Cioè, la donna pugliese, come poche, è capace di utilizzare l'intima d'azione, come dice lei, come arma, come elemento di potere. Ma lei trova se una caratteristica, io penso qualunque donna in pieno diritto capisce quando quella può essere una importante maniera per ottenere un vantaggio, sa che ha questa possibilità. Poi ci sono un'infinità di gradazioni nel farlo. Se lo fa una titolata giornalista con il suo direttore è una storia d'amore, se lo fa una poveretta che fa le pulizie in un palazzo con il ragioniere è una disgraziata che si dà. Dietro questo, visto che lei ha avuto modo di fare una collazione capillare con varie donne, mi ha proprio convinto che ci sia questo primato, una donna pugliese, di sapere usare la propria femminilità come arma strategica nel momento giusto e con le persone giuste. Io ritengo di sì, anche perché hanno il livello, voglio dire, esiste un livello mediamente non bassissimo. Parlo di livello culturale in generale, però purtroppo viene utilizzato in maniera non... Lei quindi conferma quello che dice Sansonna, non è tanto importante mostrare una affabulazione, un livello di elaborazione della realtà, quanto ottenere, e per ottenere quella è la maniera più semplice. Stiamo dicendo cose abbastanza pesanti, però essendo lei pugliese io mi attengo a quello che lei dice come testimonianza, non prendendo parte. Io vorrei che qualche donna chiamasse e mi dicesse le ragioni profonde, perché dietro ogni attribuzione ipotetica, onirica, esistono dei fondamenti. Probabilmente è così perché magari si sono dovute sempre arrangiare da sole le donne, perché gli uomini magari andavano per mare, non so, avanzo un'ipotesi. Giuseppe Sanzon. No, più che altro la borghesia barese, nel senso, io citavo Nicola Lagioia prima proprio a proposito di questo, non ha la necessità di ammantarsi di ipocrite velleità culturali, spesso almeno non le ha mostrate, va direttamente al sodo di questi, ma non è che si differenzia. È un'evoluzione, aver posto il punto su caratteristiche basiche. Non fa beneficenza, non ammanta con interesse per emergency, cioè, va direttamente al punto. Dà soltanto per avere in cambio. Esatto. Davide. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ma chiami qualche donna, so sembra una trasmissione fatta nel retrobottega di una barberia. Avanti, Davide. Ma io non voglio sminuire l'argomento né generalizzarlo troppo. Io ritengo, io ho 60 anni, ho viaggiato molto e lavorato molto per l'Italia, quindi in giro. Qual è la sua regione? La regione è Lombardia. Lombardia, ecco, facciamo una prima contrapposizione, collazioniamo la donna lombarda, che ha una varietà molto, molto più estesa rispetto alla donna pugliese, con la donna pugliese, vediamo se riusciamo a tirare fuori degli elementi di giudizio. Ma io ritengo che sia generalizzato e sia un po' figlia del nostro tempo, nel senso che l'evoluzione e l'emancipazione che la donna ha raggiunto in questi anni le ha consentito di fare delle scelte, di farsi, di proporsi, quindi non necessariamente di dare in cambio di cosa, ma anche direi una sottolineatura di quella che la donna è diventata, la donna gestisce, la donna è manager, la donna è padrona di sé. Sì, ma io non sto parlando di mercimonio semplicemente, anche di generosità nel darsi, di facilità di stabilire un rapporto amoroso, un rapporto passionale, senza passare attraverso le forche caudine dell'innamoramento, del fidanzamento, del matrimonio, cioè donne che usano la propria femminilità come qualcosa che può gratificare il mondo e gratificare se stesse. Io sono convinto che siamo in questa fase, credo che sia una cosa estremamente normale e, tra virgolette, senza voler cadere nell'opposto del perbenismo, credo che sia una delle cose che la donna ha raggiunto, che poi l'ottusità di molti maschi considerano che la donna che si propone sia necessariamente facile, credo che sia assolutamente sbagliato. Vede Davide, io sono d'accordo, questo va bene per tutti, però voglio capire dove ciò accade in maniera più disinibita, più serena, più tranquilla, con meno problemi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma che gusto c'è a tormentare così una poveraccia? Poveraccia. Poveraccio sei tu, eh? Va bene, ricaccia! Avanti, andiamo a lavorare. Hai capito? Perché chi non lavora non mangia. Peppole là dentro. Ma, oh madre, ma scusi, ma non è ancora finito questo gioco di massacro? Ma perché l'ha preso così? Non è abbastanza un disastro questa scemenza che ci è capitata? Ma perché fammele pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Che cos'è che ci guadagna poi, scusi? Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata. Lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh? E che te lo dice che ci verranno a salvare, eh? Che te lo dice? Ma che te lo dice? Qua su quest'isola non ci resteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni, eh? L'ammazzo! Ah, tu t'ammazzi. Io ammazzo, ti sono fatti tuoi. Ma se vuoi stare qua e vuoi mangiare, devi lavorare. Stiamo questa mattina cercando con circostanza di particolare definire quale donna italiana abbia la palma regionale del maggior temperamento, della maggior disponibilità all'affetto, alla passione, all'intima d'azione. Leggo qualche sms mentre ascoltavo l'intervallo, mi scrivono ignorante, si dice disamina, consentitemi qualche volta l'arrovellamento lessicale. Era bello, disanima. Sì, vabbè, può capitare in diretta, comunque ha ragione, sono ignorante. Le parole particolarmente complicate non riesce proprio nemmeno di concepirle, ho una maniera basica di esprimermi. Poi scrive un'altra persona, sempre sull'SMS, che sono i più cattivi, dice: alla voce Devoto Oli, generalizzazione, c'è scritto Melo 2.0, programma radio condotto da Gianluca Nicoletti. Scusa questa pausa, ma ho una tal nostalgia dell'odio degli ascoltatori, quando trovo qualcosa mi ci aggroviglio come l'edera nei graticciati dei balconcini dei condomini, amo l'odio degli ascoltatori. Dunque andiamo avanti, stavamo toccando, sollecitato dall'ultimo ascoltatore, la contrapposizione, collazionavamo la donna pugliese con la donna lombarda in generale. Vediamo cosa hai da aggiungere, Giuseppe. Questo era Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, con i personaggi iperconnotati della Vermeuler, ovvero Giancarlo Giannini irsuto come Ulisse su quest'isola in cui rimane perduto insieme alla splendida Melato, che invece è è appunto la moglie dell'industriale lombarda, la civiltà industriale meneghina, stretto contatto, scaturisce prima la rivendicazione sociale da parte del comunista e poi scatenerà la passione, che però non può trovare un... Diciamo che la lussura viene scatenata dall'atteggiamento brutale che lei non conosce, una sorta di piacere sottile nell'essere maltrattata da quel grozzo cafone. Sì, se vuoi, e anche questa è una situazione molto legata all'immaginario, cioè la fantasia erotica, appunto, di essere a contatto sia da un lato che dall'altro, cioè la doppia soggettività, sia dal punto di vista femminile, trovare l'uomo irsuto, e sia dal punto di vista maschile, invece, accedere al salotto milanese. Sì, diciamo che l'algida premessa verrà poi in una lenta degradazione verso la lussura, arriverà a proporgli addirittura l'intima d'azione contra natura, more pecorum, sì, che è il massimo. Questa cosa, e lui risponde: bottana industriale. Allora cominciamo a sentire finalmente se è affacciata qualche donna timidamente che ci aiuta a uscire dalla limacciosa condizione di chiacchiere da barbiere. Irene, buongiorno. Buongiorno. Già ride. Rido perché il suo linguaggio, al contrario di quello che dicono alcuni ascoltatori, è veramente strepitoso. Beh, adesso parliamo di intima d'azione, che è un'altra parte, è un'altra accezione organica che dobbiamo definire. Lei quale regione vorrebbe difendere nei confronti delle pugliesi che hanno questa palma della lussuria esasperata? Difendere come lussuria o difendere come moralità? No, come lussuria. Come lussuria? Non lo so. Ma lei da dove viene? Da dove parla? Io sono piemontese, abito in Lombardia da quasi tutta la vita. Ecco, quindi diciamo, però... secondo lei alle sue latitudini si può avere qualche circostanza che contraddica quello che è il luogo comune dei giornali di questi giorni? Cioè che sta tutto al sud? Sì. No, io penso che non sia vero, cioè non ci credo tanto alla mappa, credo al fatto che ci siano donne molto sensuali, credo che ci siano altre donne che invece cercano il potere o prevalentemente il potere, cioè la mappa è una mappa di potere e se vogliamo di sensualità, ma non credo questo che sia tanto. A me fa un po' soffrire questa cosa, perché pensare che la sensualità, quella che io chiamo intima d'azione, che lei capisce che è un termine che racchiude tutto in sé, sì, anche semplicemente sì. Uno sguardo, anche la generosità di un sorriso in metropolitana, per me è un atto profondo di intima d'azione, che sia soltanto, sottenda soltanto al fatto di ottenere un vantaggio concreto, a me fa un po' soffrire, però magari è proprio a me così. Fa soffrire tantissimo, è una cosa che detesto. E quindi lei fa un'affermazione teorica, però non mi aiuta nello stabilire questa mappa, che è il compito di questa mattina. Io sono un po' contraria alla mappa, forse per questo. Lei forse non è per la mappa, va bene. Non tanto, no. Mi dispiacerebbe anche dire che c'è una mappa di questo genere. Appunto, secondo me c'è da chiedersi se è una ricerca di potere, allora forse lì c'è una mappa, perché meno le donne hanno potere in altri ambiti, questo è un dato. Questo è un dato che ci aiuta, però. Lei dice l'attribuzione maschile di sensualità, di facilità, di coscia disinibita deriva dal rapporto che ha la donna col potere. Laddove ha meno potere, perfetto. Di sì. Questo è interessante. Laddove ha meno potere deve necessariamente risalire la china con le sue facoltà naturali. Carlotta, lei cosa ne pensa? Che secondo me, io sono lombarda. E quindi? No, aspetti, era una... Cioè il dazionometro cosa segna dalle sue parti? Ma secondo me è un fatto culturale, nel senso, io dico nord e parlo di sud, nel senso, le persone a nord sono naturalmente più fredde e vedo le donne... Io potrei, adesso è brutto dirlo alla radio, ma potrei contraddire in un istante questa sua affermazione. Sì. Però da un altro punto di vista è vero che a sud le persone sono allo stesso tempo naturalmente più calde. Cioè quello che penso io è che, premettendo che secondo me l'intima d'azione è un fatto culturale dei cerchi stretti di relazione. Ma dice Margherita, che mi scrive su Facebook, dice che le donne friulane hanno un primato, non volevo dirlo ma me lo mettono in mano, un non primato su ogni altra donna, e non esiste regione più fredda da questo punto di vista. Me lo scrive Margherita in questo momento su Facebook e difende le friulane, dice da noi vige un andazzo molto britannico di gran bevute, di libera frequentazione da parte delle donne di pub e osterie, la conseguente alto tasso di intimidazioni non eccessivamente ponderate. Quindi le donne bevono, si lasciano andare, sono allegre, e quindi vede che anche l'aspetto locale incide. Io parlavo di circostanze alimentari, dipende anche da ciò che si mangia e da ciò che si beve. Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, per quello che ne so io, l'Emilia Romagna, perché sono più disponibili, ma più perché? Allegre. Ma perché? Ma da sempre così. Ma ci sarà una ragione. La mortadella, le porcilaie, ci sarà un motivo, anche scusi. Anche le ragioni alimentari, senz'altro. E poi perché sono più disponibili. Però, premesso questo... Lei di che zona è, Paola? Io sono una lombarda trapiantata a Roma, ma di origine emiliana. Quindi di queste tre nature quale prevale? Nel suo dazionometro individuale? Ha prevalso l'Emilia. L'Emilia? Perfetto, brava, mi fa molto piacere. Ad ogni modo, oggi come oggi, per me, negli ultimi vent'anni tutto è cambiato. C'è un'omologazione in tutta Italia, in quanto prevale l'offerta delle carni fresche. Cambio portafoglio. Quindi lei dice che esiste una concorrenza spietata di giovani rampolle che appartengono a quella genia che avevamo identificato proprio lunedì quando parlammo delle Miss plastificate di Miss, esatto, Italia, che portano via... però esiste anche, come abbiamo detto, il fenomeno delle cougar, che sono cougar, anzi, queste donne mature che si mettono alla ricerca di uomini più giovani dicendo noi siamo le vere donne. Sì, sì. Andiamo avanti, Giuseppe Sansonna, a quale regione andiamo a toccare con la nostra rassegna cinematografica? Andiamo in Veneto con il marcescibile Tinto Brass di Così fan tutte. Sì, perché il Veneto l'avevamo dimenticato. Ricordo che per tutto il 500, 600, 700 fino quasi all'800, prima che arrivasse altre priorità, la veneziana venne considerata per eccellenza la donna più sensuale di tutta Europa. Buonasera, sono Diana Bruni, si ricorda di me? Ci siamo conosciuti a Roma al party per la poetessa. Avevo cominciato un discorso. Sono a Venezia, ho ereditato un piccolo appartamento, vorrei riarredarlo. E per questo ha pensato a me? Beh, sì, mi aveva detto che... Ha fatto benissimo, vediamoci. Come? Dove? Quando? Stasera stessa, da me, Palazzo Lorenzoni, a due passi dall'imbarcadero di Carezzoni. Sì, sì, conosco Venezia, so dov'è. A presto allora. A presto. Quanto rimpianto, quanta nostalgia nella Claudia Cole di Così fan tutte. Ahimè, un fantasma che dobbiamo dimenticarci. Dobbiamo sovrascrivere con la nuova versione di Claudia Cole, Redenta, e un po' ci dispiace. Giuseppe Sansonna, velocissimamente le veneziane, così passiamo alla linea. Qui no, c'è un Branciaroli appunto con Claudia Cole. Tinto Brass c'è intinto il pane lungamente sulla donna veneziana, la sensualità della veneziana. Tanto qui appunto Branciaroli fa il suo alter ego veneziano che è davanti alle natiche splendenti di Claudia Cole. Anche qui abbiamo un'intima d'azione, diciamo, per vas diabolicum, come dicevano gli antichi confessori. Sì, infatti appunto questa è la però appunto siamo prima che venisse illuminata appunto dalla grazia, prima che assumesse però un'altra versione Claudia Cole, che comunque è ugualmente interessante, affascinante, una variazione appunto sulla stessa della duplicità del femminile, insomma, molto molto affascinante. Melog 2.0. Donna Mimma, ora siete sola. Se gradite la protezione di Don Alvaro, voi solo parlare dovete. Che può fare una povera femmina tutta sola? No, no, non siete sola. Donna Mimma, ci sono io. Eravate ancora una bambina e già la facevate impazzire dal desiderio. Sapete la devozione che ho per voi? Qualunque cosa, qualunque. Prego, non davanti a lui. I morti non sono gelosi. Ci sono anche i vivi. I vivi non hanno orecchie quando è Don Alvaro che parla. Se voi volete Donna Mimma, voi sarete la mia donna. La donna di Don Alvaro, che vorrebbe dire una first lady di Collesano. 800240024 Giuseppe Sansonna, perché quando vengono rappresentate dal cinema le donne siciliane in amore c'è sempre questo ansimare di sottofondo ininterrotto, è un singulto continuo. Oggi stiamo parlando appunto di cliché, e questo qui c'è la summa dei cliché siciliani, ovvero c'è la vedova inconsolabile, arriva il capo mafia che gli ha appena ucciso il marito e lei alla Tanizaki lo ucciderà di sesso, si vendicherà ammazzandole di sesso. C'era la strepitosa, tra l'altro, di Pola, quindi molto lontana dalle latitudini siciliane, Laura Antonelli, che uccide appunto Turiferro in questa agone nell'alcova. Insomma, quindi c'è tutta, tornando al discorso di prima, ovviamente dichiarando che maneggiamo dei cliché, si parla di un sud appunto in cui la cultura cattolica reprime, e quindi ciò che viene represso poi esplode in maniera deflagrante e definitiva. E quindi il cinema... fatto che sia di origine giuliano-dalmate conferma quello che mi stanno scrivendo ormai tutti su Facebook, che le donne friulane avrebbero il predominio sulle donne italiane. E questo, diciamo che è un'eccentricità. Nessuna vulgata, né giornalistica né letteraria, ha mai celebrato la sensualità della friulana, la capacità e l'attitudine all'intima d'azione. Vediamo di capire meglio con i nostri ascoltatori. In fondo dobbiamo dare la palma alla donna più facilmente, allegramente, sinceramente, liberamente disponibile. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma se lei, visto che ho sentito gli altri ascoltatori e quasi nessuno fa una mappa come lo sto chiedendo da un'ora, ma sono tutti resti a mappare, invece dobbiamo mappare. Fra l'altro ci stanno arrivando i moduli del censimento dell'Istat a casa in questi giorni, e quindi probabilmente ci sono delle caselle da riempire che potrebbe essere utile ascoltare questa mappatura. Secondo me sì, al di là del fatto che è anche una questione di latitudine, secondo me. Assolutamente. L'aria, l'acqua, sono tante le circostanze. Sì, sì, però secondo me anche più ci si avvicina al sud, più le donne sono più passionali. Poi che lo siano con i loro uomini o che lo siano in genere è da verificare. Però anche le persone di colore hanno il ritmo nel sangue anche. Sì, stiamo continuando però a confezionare luoghi comuni. La mappa deve essere fatta, secondo me, su circostanze che derivano da un'esperienza personale, da una variegata frequentazione, sennò il luogo comune, lo ripetiamo, mandiamo tutti i film che abbiamo a disposizione, come ad esempio questo. Scusate il ritardo. Hai visto che gira e rigira sempre da Carlina, tu devi tornare. Piripi. Ascolta, Piripi, te l'ha spiegato lei che cosa devi fare? Tu forse ti sei scordato che ho fatto un anno di recitazione con Peter Brook e che ho cantato pure come mezzo soprano al San Carlo di Napoli. Si sa. Però ascolta, mezzo soprano, te stasera e solo per stasera dovrai far finta di essere la mia fidanzata, per cui comportati per bene. Non ti preoccupare, la facciamo schiattare d'invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena. È budubu, budubu. E mi girava e mi rivoltava. Ma che era? Era una furia. Ma che era? Era uno stallone. Alla fine, dopo due ore di sesso sfrenato, lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Ma dillo a tutti, non solo a lei. No, io lo devo dire allo spagnolo. Ha avuto il coraggio di chiedermi. Ecco, qua abbiamo un contrapporsi speculare di luoghi comuni. Pieraccioni, che ha un merito, ha insegnato agli italiani un'accezione legata all'atto d'accoppiamento che non conoscevano. Se da qualche anno gli italiani dicono trombare dalle Alpi alle piramidi, è per i film di Pieraccioni. Per trovare un antagonista alle spagnole che ballano il flamenco, altra cosa totalmente irreale, prende Tosca d'Aquino che parla napoletano. Sì, la commedia, specie quella di Granagossa, quella brutale, quella che poi di fatto tragicamente funziona al botteghino, ha bisogno di forzare il cliché, e quindi appunto la napoletana, la surnapoletana Tosca d'Aquino rappresenta una rivale degna invece della ballerina di flamenco spagnola, che quindi può ingelosirla nel contesto della situazione. E la donna toscana in tutto questo sta fuori, perché in quel film Pieraccioni è una sorella lesbica, quindi è come se l'espressione, l'intima d'azione eterosessuale in Toscana non possa essere rappresentata. Laura. Buongiorno signor Nicoletti. Beh, le mie donne veronesi, io compresa, abbiamo uno sfrenato identificarsi nella donna che dà piacere al nostro uomo, tant'è che tra le mie amiche, tra un sacco di donne veronesi che conosco, nonostante che siamo pestate, picchiate, qualsiasi cosa. Come chi vi picchia, chi vi pestano? Gli uomini vi picchiano. Nella nostra famiglia, ahimè. E quindi quello che le dico è semplicemente. È una sua circostanza personale che viene picchiata? Personale e anche, certo. È tristissimo, però non è. Ecco, non vorremmo dire. No, le sto dicendo questo, che nonostante questo, l'amore per i nostri uomini fa sì che doniamo il nostro corpo. Io credo. Ah, cioè l'intima d'azione dopo la bastonatura. Le posso assicurare che quando arrivano col l'anellino o col mazzo di rose scarlatte, noi cadiamo, nel senso che la nostra cultura qui in Veneto è davvero che la donna dolce, tu devi fare così, tu il tuo uomo, tu, eccetera, eccetera. E quindi come dire, a un certo, è come qualcosa che il mio corpo è sempre bello, è sempre desiderato, anche compiuti 50 anni, quello che vuoi, e dopo il mio uomo torna, non solo, ma anche altri uomini mi amano, perché... Perché su piaccio, perché la dolcezza veneta è intoccabile. Sì, no, è toccabile, è... penso che sia anche piacevolmente toccabile, ma a parte questo, tutto mi sta bene, meno il fatto delle botte. Secondo me è un additivo di cui si potrebbe fare a meno, a meno che a lei piaccia essere presa a cinghiate, poi è un problema suo, questo non riguarda noi. Era un'altra trasmissione, l'abbiamo fatta qualche giorno fa. Alessandro. Eccoci, buongiorno. Sulle friulane. Io confermo che sono le donne friulane. Ora, noi in genere diciamo friuli e ci comprendiamo dentro tutto, da Trieste o Pordenone, ma io parlo del Friuli vero. Infatti, come fa l'amore le donne da Trieste in giù? Come pensi, qual è la Carrà? C'è un motivo evidentemente, sì, ma qual è il motivo? No, ma le dico, allora, intanto preciso che si tratta delle donne di Udine, di qualsiasi età. Lo identifica in Udine, la vera capitale dell'intimidazione. Udine, Friuli, in particolare proprio Udine. Che pensi che sono fra i posti dove, quando ancora c'era la leva militare, uno accendeva a cera la Madonna per non farcisi mandare, perché c'erano solo caserme. Beh, occhio però, lì si parla, le caserme sono a Spilimbergo, nei paesi sperduti, insomma, erano, qualcuna c'è ancora, Casarza, eccetera. Casarza della però, delizia, insomma, io... che uno diceva, ma quale delizia? È vero. Però io parlo proprio di Udine città, cioè dalla segretaria 25enne alla maestra di 60 anni, a giugno tutti partono, prendono con il beneplacito del marito e caricano le loro macchinine di... E dove vanno? E vanno a Lignano Sabbiadoro, in questi palazzoni di 10 piani, un po' in pineta, un po' sotto il sole, e trombano come ricci, Nicoletti. Questa è un'informazione, finalmente qualcuno che chiama le cose con il loro nome. Ci stiamo girando intorno con filosofie. Lei ha creato intanto la prima bandierina rosa nella mappa che cercavamo di stabilire. Renato. Ciao, Nicoletti. Dunque, vogliamo fare una mappa delle donne italiane? Io ho 52 anni e ho girato per maestranze, per il mio lavoro, senza dire che lavoro faccio, vabbè. Maestranze, quando dice maestranze si capisce. Allora? Allora, praticamente io ho girato il Veneto, mi sono soffermato... Chiudiamo, perché stiamo arrivando. Nomi, okay. Nome di posto e allora, città. Allora, io direi di non colpabilizzare nessuna regione, perché tutte le regioni hanno il suo lato negativo, il suo lato... Ma il lato migliore qual è? Dove sta? Che io ho trombato da tutte le parti. Ho capito, non me lo vuol dire, pazienza, questa è stata la mattina, avevamo cominciati bene, avevamo iniziato alto, abbiamo finito con una sorta di elenco dei ricci italiani. Giuseppe Sansonna, chiudi te. Elenco dei fantasmi maschili, perché quello sono tutte proiezioni, tutte di chiacchiere, la segretaria, sì. A Perugia dicono chi il fa nel dice e chi il dice in campa, quelli che dicono io ho trombato come un riccio in realtà hanno qualcosa di lumachesco nella loro vicenda sessuale. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti. Non siamo arrivati alla mappatura, ma ci siamo andati vicini. A domani. Alors tous deux, on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.